Radio Città Fujiko e l'Università Primo Levi presentano Guida all'ascolto della musica classica, tre secoli di creatività musicale. A cura del professor Stefano Malferrari. Schubert, Gretchen aus Mirlade, cioè Margherita all'arcolaio, dal Faust. Gretchen è un brano scritto nel 1814, è un brano di pochi minuti, 3 minuti, è un lied, una canzone. A 17 anni Schubert scrive questo piccolo brano per raccontare le emozioni di Margherita, innamorata di Faust, e in qualche modo portata alla disperazione, all'ossessione per questo amore. Racconta questa emozione attraverso le parole di Goethe, manipolandole un po', prende una quartina e la ripete a mo' di ritornello, però non aggiungendo nulla al testo estrapolato da Goethe. Ma la cosa più importante è che utilizza un testo che diventa una melodia estremamente affascinante, ma ancora più della melodia utilizza una parte pianistica, che normalmente dovrebbe essere un solo sostegno al canto, alla voce, ma attraverso questa parte pianistica rende l'idea dell'emozione di Margherita. Abbiamo nella parte della mano sinistra un accordo vuoto, cioè un accordo che non ha una vera e propria definizione di tonalità. E una di queste due note, una è un re, l'altra è un la, il la viene ripetuto costantemente. Margherita all'arcolaio, in teoria, dovrebbe essere la scena di una fanciulla che sta lavorando a filare, quindi anche il movimento eventualmente del piede, del pedale dell'arcolaio. Ma se guardiamo bene questo ritmo, è quasi un battito cardiaco. E la parte della mano destra è una serie di note ripetute. Ma attraverso queste poche note ripetute, in modo ossessivo, Schubert riesce a rendere l'idea di quello che è il tarlo, del pensiero ossessivo, rende l'idea emotiva di quello che le parole dicono. In pratica comincia con Schubert un'idea molto forte del racconto in musica, del racconto delle proprie emozioni, il racconto nelle piccole forme, una forma piccolissima, un brano che dura 3 minuti, in questo caso un brano che utilizza le parole. Ma al di là delle parole, poi visto anche trascritto per pianoforte solo, mettendo in modo virtuosistico la parte del canto alle dita estreme della mano destra, al quarto e al quinto dito, quindi un brano che per Liszt regge anche senza le parole. In questo piccolo brano che ho preso come spunto, abbiamo un'idea di quello che è il percorso dell'estetica del romanticismo. La fantasia portata come racconto, non più come musica pura, ma come portatrice di qualcosa che viene narrato attraverso la musica, e come la piccola forma possa racchiudere all'interno un grande percorso emotivo e narrativo. Vedremo che con Chopin, con Schumann, con Brahms prevarranno le piccole forme, più che la forma sonata che invece abbiamo trovato regolarmente in Mozart, in Beethoven, in Haydn. Oggi vi farò sentire 2 sonate di Schubert, quindi 2 brani che Schubert ha scritto con quella che era la forma classica. Ma vedremo come attraverso la forma classica Schubert scrive altro, scrive qualcosa che non è più la musica di Mozart o il pensiero musicale di Beethoven. Schubert è uno di quei casi di chi, con un grandissimo talento, un genio, perché a 17 anni scrivere un lied come Gretchen aus Mirlade è assolutamente geniale, non tanto per il piccolo brano in sé, ma è geniale come un ragazzino di 17 anni possa avere compreso un poeta come Goethe, averlo trasposto in musica e aver creato un gioiello di una tale forza espressiva ed emotiva. E Schubert fu un enfant prodige, con la differenza che mentre Mozart, nato a Salisburgo e aveva padre musicista in una corte importante, Ecco, Schubert nasce nei sobborghi di Vienna, da un padre maestro elementare che lo inizia alla musica come tutti i maestri elementari facevano abitualmente in area germanica, e quindi comincia a studiare musica col padre, poi studia musica con un maestro elementare che non è più il padre, ma in ogni caso che gli insegna le prime basi di musica, però comincia in brevissimo tempo ad avere quel talento che probabilmente un Leopold Mozart avrebbe sfruttato in maniera più efficace. Ecco, Schubert a 10 anni studia con Salieri, che lo prende come allievo, e a 10 anni scrive la sua prima sinfonia. Quindi a tutti gli effetti un vero e proprio enfant prodige, un genio, che però per tutta la vita non godrà di quella fortuna, ma non solo di quella fortuna, ma nemmeno di una piccolissima parte di quella fortuna di cui aveva goduto Mozart o anche Beethoven stesso, con tutti i problemi che Beethoven poteva avere vissuto. Oggi, dicevo, vi farò sentire due sonate, perché sono due sonate che si rifanno a uno schema di forma sonata classica. Però è interessante il fatto che una sia stata scritta nel 1819. Nel 20 Beethoven scrive le 3 sonate, la 109, la 110, la 111, e Schubert scrive nel 19 una sonata in 3 movimenti, come in 3 movimenti era l'opera 110 di Beethoven. Con la differenza che Beethoven nell'opera 110 scrive una sonata che dal punto di vista classico ha praticamente distrutto completamente la forma. Lo Schubert, 22enne, scrive una sonata che invece è un esempio di forma classica. Un primo movimento che Schubert chiama allegro moderato, un secondo movimento che è un andante e un terzo movimento che è un allegro vivace. Manca il minuetto, ma non era obbligatorio che ci fosse per forza il quarto movimento presente. Con Schubert abbiamo un primo movimento che ha una melodia molto cantabile. Potrebbe essere una melodia cantata da un tenore o da un soprano. Schubert, ospite presso una famiglia benestante, conosce la figlia di questi padroni di casa e se ne innamora e scrive questa sonata dedicandola idealmente a questa fanciulla, ma conosce a casa di questa famiglia anche un baritono celebre per l'epoca e in questo periodo scrive alcuni dei suoi leader più importanti per voce. Ecco, questa linea melodica è chiaramente una linea melodica ampia, estesa, per una voce. Manca un testo, ma fondamentalmente possiamo comunque immaginare che voglia raccontare una propria storia. C'è un secondo tema, come tutte le forme sonate avevano, che a differenza del primo tema, che è più cantabile, è un secondo tema più agile, ma sempre col carattere brillante come potremmo trovare per esempio nella trota o nei leader più guizzanti e più agili di Schubert. Che viene ripetuta, ha uno sviluppo, che è quella parte in cui vengono elaborate le due linee tematiche, quella del primo tema e quella del secondo, e una ripresa. Addirittura Schubert, alla fine della seconda parte, mette un ritornello, quindi c'è un'esposizione che viene ripetuta, uno sviluppo e una ripresa, che vengono interamente ripetute. È quasi come se avesse paura di non riuscire a spiegarsi bene. Ecco, il secondo movimento è un andante, ha questa linea tematica straordinaria perché sono soltanto 2 note, c'è un termine tecnico in musica che è il ritardo, ovvero se io eseguo una melodia se per suonare queste 4 note prima di suonare la nota che mi interessa suono una nota vicino che mi porta alla nota che voglio in realtà far sentire, la nota vicino si chiama ritardo, perché in pratica fa ritardare la nota reale, la nota che mi interessa. E il ritardo in musica addolcisce moltissimo, perché se adesso vi faccio sentire di nuovo la melodia di prima, e ve la faccio sentire con i ritardi, è come se la nota che aggiungo ammorbidisse l'arrivo sulla nota che mi interessa. Nel secondo movimento tutta la melodia è presentata con questi ritardi. Ve la faccio sentire prima senza questa idea della nota che addolcisce e diventa questo. Se la eseguo come l'ha scritta Schubert, diventa questo. Aggiungendo solo questa nota, addolcisce completamente la linea melodica e tutto questo secondo movimento è reso dolcissimo attraverso questi continui ritardi della melodia. Tra l'altro, la nona sinfonia di Mahler, che viene circa 100 anni dopo e che ha una durata, il primo movimento ha una durata di circa 20 minuti, presenta, forse casualmente, una linea melodica che ha le stesse identiche note di questo andante di Schubert. Ecco, poi c'è il terzo movimento, che è un valzer. Troviamo all'interno di una forma sonata, la forma del maestro Haydn, una danza popolare. Il primo che ha apprezzato, e tra l'altro in un periodo in cui non c'era una grande abitudine all'ascolto di Schubert, questo dilatarsi delle forme di Schubert è stato Schumann, che in uno dei suoi scritti per la Allgemeine Musikalische Zeitung l'ha intitolato Le divine lunghezze. In pratica, magnificando questa capacità di Schubert di dilatare l'esposizione delle melodie al punto da diventare quasi qualcosa di nuovo per l'abitudine dell'ascolto fino a quell'epoca. Un'altra caratteristica schubertiana è quella che non è mai comodo per nessuno strumento. Le sonatine, tra l'altro sonatine ricordano qualcosa di semplice, di facile. Ecco, le sonatine di Schubert per violino e pianoforte non sono amate troppo dai violinisti perché scomode, scomodissime, pur in una linea melodica semplicissima. La sonata arpeggione, quella che viene fatta spesso col violoncello, la sonata celeberrima, in realtà era poi una sonata molto semplice, scritta per uno strumento, l'arpeggione, che è andato immediatamente nell'oblio, quindi l'unico modo per eseguirla nuovamente, visto che non ci sono più costruttori di arpeggione, è o con il violoncello o con la viola, qualche volta col violino, però mentre l'arpeggione aveva 6 corde, la viola, il violino e il violoncello ne hanno 4, fare con 4 corde quello che si faceva con 6 diventa un virtuosismo enorme anche in una melodia che appare semplice. Questa stessa sonata, che è considerata tra le due sonate, la maggiore e quella piccola, ha dei passaggi assolutamente scomodissimi per chi suona. Certi studi trascendentali di Liszt sono di una difficoltà assoluta. È come dover fare un triplo salto mortale. Con Schubert, a volte il triplo salto mortale è richiesto facendolo con lo smoking. E tutto deve sembrare ordinato, comodo, anche quando in realtà è estremamente scomodo. E l'ultima è una considerazione presa da un'intervista che venne fatta a Claudio Arnau, grandissimo pianista del Novecento, che disse: Mozart è per la giovinezza, Beethoven è per la maturità, Schubert è per la vecchiaia. Inteso non dal punto di vista della difficoltà manuale, ma dal punto di vista della capacità di adagiarsi su un ascolto che chiede tempo. Io in Schubert vedrei fondamentalmente due tappe. La prima arriva nel 23, la seconda nel 27. Schubert, fino a quell'epoca, è un compositore, se vogliamo, sfortunato, non apprezzato, se non in una piccolissima cerchia di amici. Non a caso, erano già cominciate quelle che venivano chiamate le Schuberabend, le Schubertiadi, queste serate musicali dove veniva eseguita musica di Schubert per ore. Nel 23 Schubert viene a sapere di essere ammalato di sifilide e nel 1823 di sifilide si moriva. Ecco, da quel momento la sua produzione assume un carattere molto più intimo, molto più personale, e poi assume un carattere totalmente personale dal marzo del 27, quando il 25 marzo muore Beethoven, e Schubert in qualche modo si smarca da questa presenza e nello spazio di 18 mesi scrive i suoi più grandi capolavori, le sue ultime tre sonate per pianoforte, i cicli lideristici. Però nel 23, appunto, Schubert comincia anche a meditare quello che è il Winterreise, il viaggio d'inverno, questo ciclo di Lieder, di un viaggio verso la morte. La sonata che vi faccio sentire è scritta proprio nel 23, e vi faccio sentire questa sonata perché ha le stesse caratteristiche formali della sonata che vi ho fatto sentire prima. Ecco, l'unica cosa è che la tonalità della sonata precedente era la maggiore. La tonalità di questa sonata è la minore, quindi una tonalità più cupa. Sembra quasi una processione questo primo movimento, anche se scrive allegro, allegro moderato, però a mio avviso è quasi un racconto epico, è quasi una processione funebre. Quindi sono note che hanno un valore più dilatato, però con un andamento che cammina, ma cammina come cammina una processione. E questo primo tempo è veramente un manifestare, come in Gretchen am Spinnrade, il pianoforte attraverso un movimento. Costante, circolatorio, dà un'idea di ossessione. Questo primo movimento è quasi un'idea di processione funebre. E tra l'altro, scritta nel 1823, questo c'è già dentro l'idea di certi brani dei quadri di un'esposizione di Mussorgsky che verrà molto tempo dopo. E poi c'è un secondo tema che è un brano dove il cammino è lento, dovrebbe essere più agile. Nella sonata di prima il primo movimento è cantabile, e il secondo tema è più agile. Schubert in questo caso mette un primo tema decisamente cupo, anche se scrive allegro, moderato, ma un tema ampio, e mette un secondo tema che in realtà non è per niente più veloce, è solo molto più sereno. leggero come spirito, ma non come velocità. Può sembrare una piccola cosa vista con una lente di due secoli posteriore, ma per l'epoca, se uno si avventurava in una forma, quella idea doveva rispettare. Il primo tema era un tema agile, il secondo era un tema più dolce, non a caso banalmente veniva definito il tema maschile, il primo, il tema femminile, più dolce, più languido, il secondo. Ma valeva anche il contrario, se il primo tema era un tema delicato, il secondo doveva essere per forza più agile, più incisivo. Con Schubert abbiamo un primo movimento più pesante, più statico, più cupo, e un secondo movimento che non è affatto più agile, è solo più disteso, quasi come se ci fosse una rassegnazione. Ecco, questa la troviamo nel primo movimento, il secondo è veramente una piccola elegia, quasi una piccola preghiera. Questo movimento, proprio estrapolando una parte, thank you. melodicamente inserite queste note. Ecco, vi dicevo il Gretchen, dove c'è un canto, un testo, quello di Goethe, una melodia scritta bene, affascinante, interessante, e sotto un accompagnamento pianistico che invece di limitarsi a sostenere la voce, del pensiero di un'innamorata, ma del pensiero ossessivo, di un amore drammatico. È come se Schubert inserisse all'interno di una melodia molto delicata, inserisse questo pensiero. Inserisce attraverso tante indicazioni precise, a poco di nuovo vivente, un tema che è il tema che definisce il tema del pianto. C'è tanto della propria biografia, del proprio momento, in quel lavoro che è la sonata opera 110. Ma Beethoven lo scrive. Ecco, Schubert non scrive nulla. Scrive una melodia dolcissima, in un momento estremamente drammatico della sua vita, ma questa melodia non è sviluppata in modo lineare, ma come quando noi vediamo qualcosa di bello ma abbiamo un pensiero triste, che si inserisce ogni tanto. Ecco, in questo momento Schubert interrompe questa dolcissima melodia con queste poche note, sono tre note vicine. Se le suonassi insieme darebbe un senso di cluster, di grappolo sgradevole. E tutto il secondo movimento è inframmezzato da questi interventi. E poi c'è un terzo movimento che in realtà è quasi una fuga drammatica. A portare via tutto, però all'interno c'è, ripetuta più volte, una melodia dolcissima. Avete ascoltato? Guida all'ascolto della musica classica. 3 secoli di creatività musicale. A cura del professor Stefano Malferrari. Trasmissione realizzata da Radio Città Fujiko in collaborazione con l'Università Primo Levi e con il contributo della Regione Emilia-Romagna.